brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. La contemporaneità non cessa mai di sorprendermi. Io questa mattina volevo parlare dei ragazzini rompiscatole, dei genitori figli degli infanti terribili, volevo parlare del bamboccismo imperante, volevo parlare di quel sentimento diffuso, serpeggiante, che fa sì che tutti vezzeggino, desiderino, allucinino immagini meravigliose di fantastici bambini. Ah, quanto vorrei avere un bambino, che bel pupattolino. Poi una volta che ce li hanno, li tengono e li allevano come se fossero dei piccoli criceti in gabbietta, creando naturalmente un fenomeno comprensibile per ogni animale in cattività, che diventano dei terribili massacranti, distruttivi rompicoglioni. Beh, ne siamo circondati tutti i giorni da questi bambini, noi stessi probabilmente lo siamo stati al tempo in cui fummo infanti, non ce lo ricordiamo, ce lo siamo dimenticati, crescendo li abbiamo visti come esiti imperfetti, deleteri e mal riusciti della necessità patologica di procreare dei nostri amici. Tutte le volte siamo stati invitati da amici coi figli, abbiamo visto questi animali scatenati per casa, abbiamo detto mai, chi ce lo fa fare, piuttosto che fare questo mi castro, via dicendo. Poi ci siamo caduti anche noi, abbiamo cresciuto, allevato bimbo minchieggiato in giro per ogni giardinetto, per ogni festicciola, per ogni aula scolastica, per ogni luogo di animazione, via dicendo. Poi adesso che abbiamo raggiunto appunto la pace infantile nelle nostre case, guardiamo con uno sguardo di comprensione verso il mondo. Beh, avrei fatto una serie di esempi, ve li farò comunque, di schiavismo infantile nei confronti della classe adulta, ma questa mattina mi è venuta una fulminazione guardando gli esempi e le testimonianze dei primi amici che mi scrivevano su Facebook quando avevo annunciato l'argomento del giorno. Oggi non si può più parlare di infanzia, non si può più parlare di bambini e di adulti, oggi si può parlare soltanto di una classe unica, di una generazione infantile che va dai 15, diciamo, ma se vogliamo proprio essere di manica larga, potremmo anche dire dai 7-8 anni fino ai 47-48 anni. La caratteristica generalizzata del bambino rompiscatole, viziato, che schiavizza il mondo degli adulti, che batte i piedi, che vuole sempre avere ragione, vuole essere al centro dell'attenzione, che vuole intorno un coro festante e coccolante ed esaltante della propria bellezza, del proprio imbronciarsi, del proprio desiderare affetto, si prolunga come una sfumata lunga e indelebile fino oltre la quarantina. Il termine contemporaneo più adatto per definire questa classe generazionale, che dico, va dall'età della parola fino all'età della della perdita di ogni speranza di acquisire la ragione, che è verso i 45-50 anni, un bambinone di 40 anni non c'ha più niente ormai da sperare di crescere, di prendersi responsabilità, e quindi rimane in questo meraviglioso e vezzeggiato mondo, è quella di bimbo minchia. È un termine bruttissimo, il bimbo minchia è il ragazzino smanettone, colui che usa la protesi del computer, del telefonino come filtro della propria insipiaggine, della propria infingardaggine nei confronti del mondo, che ha alcune mode musicali, alcuni gusti musicali, alcune maniere di vestirsi, è una sorta di classificazione dell'underground di coloro che frequentano macchine di calcolo, computer e via dicendo, si parla e si favoleggia e si gioca su questi bimbo minchia, che sono i ragazzini che vediamo il sabato pomeriggio girare per i centri cittadini, vocianti, urlanti, sbulleggianti, tutti vestiti rigorosamente uguali, ma è già da anziani definirli. La bimbo minchiaggine però è una categoria dello spirito che sopravvive in una fascia età molto allargata, e questa mattina, partendo dagli esempi classici appunto della schiavizzazione, dell'infantilismo nei confronti della possibilità di essere adulti, cercheremo di analizzarla in questa nuova ottica. Come va? Sara, sono Lorenzo, il papà di Daniele, sì. Ti ricordi? Senti, mi passi papà per favore? Il micio? Come fa il micio? Miau miau. Come fa il grillo? Ma il grillo fa cri-cri, lo sai, no? Sì, sì. No, tu adesso passami papà. Come fa la pecora? La pecora fa beh, il gallo fa chicchirichì. Come fa? Sara, ti prego, passami il papà. Io... Ma non li conosco tutti. Da anni ormai Salina era dominata dai figli unici. Ogni famiglia... Pio pio, il pulcino fa pio pio. Ogni famiglia aveva un figlio solamente, a cui veniva affidato il comando della situazione. Quando Nanni Moretti nel 93 fece Caro Diario, in uno di questi episodi parlò appunto delle isole, di questi figli dei giovani intellettuali, giovani, coloro hanno investito nella cultura della propria mente, la propria coscienza politica, tanto le loro energie, erano al limine, allo sgocciolare della loro età feconda, quindi facevano il figlio unico, si fermavano lì, avevano appagato il loro desiderio di procreazione, avevano chiuso il cerchio, trovavano che in fondo era un bel doppio salto mortale impegnarsi alla famiglia, ma naturalmente creavano questi terrificanti bimbi minchia, come questa ragazzina che abituata ad avere sotto le sue rose manine come schiavi in belli genitori, applicava questa sua educazione severa ad ogni essere umano che entrava nel circolo mefitico della sua influenza. E Nanni Moretti ne vittima, poi andrà a visitare dei suoi amici con un bambino che ha paura del lupo, l'ora del lupo, se lo portano a letto, questi figli che fino a 15 anni vanno a letto con i genitori, impedendo ai genitori di avere poi un'attività coniugale, quindi una sorta di ricatto incastro terrificante che massacra le generazioni. Ma in realtà quello che ancora al tempo non colse Moretti, che il bimbo minchiaggine, la vera bimbo minchiaggine, non era tanto quella di figli ma quella dei genitori. I bimbo minchia genitori di quella generazione sono quelli che in realtà oggi sono i genitori attempati di bimbo minchia quarantenni, cinquantenni. La bambina che diceva negli anni 90 fai pio pio il pulcino, fa mia miau il gattino, era colei che oggi veleggerà per i 35 anni, ancora è nell'area economica e di cultura dei propri genitori, e già bimbo minchieggia in attesa di avere anche lei una successiva generazione, una successiva release di questa caratteristica. 800240024, mentre voi riflettete su questo termine per molti singolari, abbiamo Mauro al telefono. Mauro, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Mauro, nella sua esperienza professionale, umana e esistenziale, ha avuto modo o ci può aiutare a identificare il fenomeno del bimbo minchia, che non è riferito soltanto ai bambini ma a una generazione allargata? Guarda, io ieri sera ho fatto un favore a un amico e sono andato a riprendere la sua esibizione teatrale che lui ha fatto per una classe di quinta elementare a cui era invitato anche i genitori. Questa è un'attività tipica della bimbo minchiaggine, il genitore è dotato di telecamere con qualche caratteristica professionale che viene invitato dagli altri, o fui costretto in varie generazioni di figli alle scuole elementari di andare con la telecamera a riprendere le terrificanti recite, luogo di esemplificazione delle velleità registiche autoriali di maestre frustrate che duravano ore e ore e ore, io lì con la telecamerina a riprendere l'orrore. Andiamo avanti, Mauro. Beh, comunque appunto lui, questo invece il pezzo l'aveva fatto appunto questo mio amico. Beh, innanzitutto c'erano comunque appunto i genitori dei bambini, tutti quanti con il cellulare, le macchine fotografiche di ultima generazione, e intanto i bambini che andavano avanti a fare casino allegramente, raramente c'era un attimo di silenzio in questo spettacolo, e la cosa bella era vedere i genitori che erano comunque vicino a questi bambini, non gli dicevano assolutamente nulla, no? Cioè non era una fermata. Cosa incredibile, che io adoro il teatro, e vedere questo silenzio dei genitori. Quindi convieni che in realtà la categoria del bimbo minchia, che secondo una lettura superficiale è attribuibile all'età infantile, in realtà va attribuita alla generazione dei genitori. Sì, completamente d'accordo, esatto, almeno l'esempio che ho avuto ieri è stato molto negativo, anche perché poi erano davvero tanti, davvero tanti. Senti, di questi terrificanti filmatini poi cosa farai? Li confezionerai in un DVD, ci farai una bella copertina, ti costringeranno a farne decine di copie e se li distribuiranno tra di loro, e a loro volta infetteranno con il virus della recita scolastica gli amici degli amici degli amici? Guarda, appunto, perché visto che era per un favore da fare all'attore, quindi la video andrà all'attore direttamente, ma comunque ci sono già state diverse persone che dicono no, ma fammene avere una copia, che comunque la vorrei avere, e ho detto vabbè, parlate con lui che è di sua proprietà. Lo sai cosa temo io, Mauro? Che presto avremo copia di questo filmatino su Facebook, su YouTube, perché i genitori non resisteranno, come io sto adesso scorrendo gli indirizzi e i profili delle decine, decine, centinaia di bimbo minchia quarantenni che ho nella schiera dei miei amici, e tutti hanno le foto di loro con i figli, loro con i figli alla recita, con i figli al mare, con i figli sugli sci, con i figli a pranzo che danno la pappa, che allattano e via dicendo. Quindi devo dire che il virus è molto esteso, altro che l'influenza A. Grazie mille, Mauro. Un'intera famiglia sequestrata da una bambina di 3 anni. Mamma Barbara e papà Pierangelo sono alla mercé della piccola Sofia. Lei urla, strilla come una matta, si butta per terra. Quando vediamo che si comporta in quella maniera ci angosciamo e diciamo, mo che facciamo? A complicare la situazione ci si mette anche Francesca, che invece urla in silenzio. Barbara è sfinita. Pierangelo vorrebbe cambiare le cose, ma sembra rassegnato. Ma non la nostra tata. SOS Tata fu un profetico programma televisivo che non fu letto e interpretato nella drammaticità del messaggio che conteneva. Tutti pensavano che fosse una divertente maniera per dare alcuni rudimenti ai genitori di miglior allevamento degli animali che avevano in casa, animali, cioè dei loro figli, perché su cani, gatti e quadrupedi esiste un forte senso civico e pubblico. L'abbiamo visto ieri sera, un meraviglioso porta a porta di Bruno Vespa, dove c'erano ministri della Repubblica con i loro cani accanto, cagnolini da grembo, Katia Ricciarelli con il suo bastardino, che litigavano tra di loro sull'annoso problema che ha bloccato, mi sembra, i lavori del Parlamento per un giorno: si tagliarono la coda alle orecchie ai cani. Sui bimbo minchia cresciuti in realtà non c'è un problema di tagliare, perché sarebbe da fare una radicale e totale escissione della bimbo minchiaggine, che è una caratteristica dello spirito difficilmente estirpabile. Beh, io vi dico qualche messaggio che sto leggendo su Facebook e devo dire che abbiamo toccato un nervo scoperto. Alessia dice: mamma mia, i bimbo minchia no, vado alle riunioni, sono sempre la madre più giovane. Genitori che hanno quasi l'età di mia madre, per un altro grande sostenitore del detto, meglio una nonna giovane che una madre vecchia. Con gli anni aumentano le ansie, diminuiscono le energie, ma forse anche lì sta la ragione di figli così. Poi, andando avanti, Tatum: i bimbo minchia sono figli di genitori giovani o anziani che pensano i loro figli siano perfetti e non li rimproverano mai. Questi piccoli individui prendono a pizze la tata, trattano male e passano il tempo con poco tempo con i loro genitori. Questi ultimi si sentono in colpa perché non passano il tempo con i loro rispettivi figli e non li puliscono mai. Generalmente i bimbo minchia sono figli di papà. Sentiamo Anna. Anna, buongiorno. Buongiorno Gianluca, grazie per avermi chiamato. È stato divertente pensare che mia figlia forse è stata una bimba minchia per tanti anni. Quanti anni ha tua figlia? 14. Vabbè, tu sai, proprio per la legge, ahimè, terrificante che stiamo capendo questa mattina, se tua figlia è bimbo minchia significa che tu sei bimbo minchia ancora radicalmente alla tua età di madre. Assolutamente sì, e queste botte che dà la mia autostima mi costringono a guardarmi. Andiamo alla sintomatologia. Tu che sintomi vedi nella tua figlia? Quanti anni ha tua figlia? 14, compiuti da pochissimo. Vediamo però i sintomi della bimbo minchiaggine, almeno quelli più evidenti, poi vediamo se nella madre esiste un riflesso e una ragione di questo esito. Diamolo per scontato, esiste un riflesso e una ragione. Io ho questa fatica di diventare una donna affermata professionalmente, sto facendo le mie belle fatiche, frustrazioni che il mondo del lavoro mi costringe ad affrontare, e chiaramente nel conflitto con mia figlia lei mi dice: io non sarò mai una fallita come te. E io ritengo che a quel punto si chiuda il cerchio. Sei tua figlia che sta preparando l'ascia per punirti per quello che hai detto, almeno dal rumore di sottofondo. Questo ti ferisce? Mi ferisce, mi fa anche pensare che tutto sommato con mia madre ero anch'io così, che c'è tutto un rapporto genealogico da quindi sistemare. Diciamo, il sottile sadismo della bimba minchia che sta affilando la mazza alle tue spalle è quella di toccarti nel vivo nel tuo rapporto di bimba minchia cresciuta con tua madre, probabilmente anche lei bimba minchia di un'altra nonna, probabilmente di toccare il punto nevralgico del male di famiglia e su questo farti del male. Assolutamente sì, questo rumore comunque non è l'ascia di mia figlia, ma è una i lavoratori qua, i muratori fuori. Certe volte le guardo, mia madre, mia figlia, io in questa verticalità, loro che si guardano come se io fossi la più stupida di tutte e tre, e dico una cosa che non si può dire in radio, Gianluca. Sì, però io penso esattamente che tua madre e te vi guardiate e vostra figlia legga nel vostro sguardo esattamente lo stesso messaggio. Tu e tua figlia vi guardate e vostra madre pensa, guarda che se sue guardano e pensano che io sia la scema del gruppo. La bimbo minchiaggine a me ha questi sintomi terribili, terrificanti e irreversibili in varie generazioni di genitori. Ernesto. Pronto? La sua esperienza... Scusa, mi sono messo... Lo so, capisco, è brutto parlare di queste cose, ma facciamoci coraggio. No, non è brutto, io non sono d'accordo su bimbo minchiaggine. Prima di tutto perché io sono padre di due figli, uno di 16 quasi e uno di 4. La bimbo minchiaggine dei figli dipende dai genitori. Ma è quello che stiamo dicendo. Stiamo dicendo che è una sorta di virus familiare generazionale che rende omogenea una classe infantile che va dai 5 ai 45 minimo. Siamo noi che non ci rendiamo conto, perché come stavo ascoltando adesso la signora della figlia che non vuole essere come una madre, c'è qualcosa di fondo che non va nei genitori, non nei figli. Non ci scordiamo che i bambini non chiedono di essere messi al mondo. Beh, ha 14 anni questa signorina. Sì, ma no, io non lo permetterei a mio figlio. A parte che mio figlio non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di dire una cosa del genere, perché pensa che è orgoglioso sia di me che della madre, per quel poco che possiamo fare, perché non siamo gente benestante. Cerchiamo di non far mancare nulla dentro casa, però l'educazione è una cosa importantissima. Ecco, secondo lei la bimbo minchiaggine familiare è data anche da un eccessivo benessere o un eccessivo voler soddisfare tutti i bisogni materiali in famiglia? Come stavo, assolutamente no, come stavo dicendo prima alla signorina al telefono, io ho vissuto 2 mesi che sono stato in Messico. Ho dei amici e parenti giù. Lì, praticamente, facendo un paragone, i bambini vivono praticamente allo stato libero, cioè sono, non hanno freni da parte dei genitori. Poi ci siamo trovati in alcune situazioni dove questi bambini in locali chiusi non si fermavano, non si frenavano. Allora io mi sono dovuto incazzare con la persona perché rimproverava in continuazione i figli. Ho detto scusa se mi permetto, ma tu a casa a questi bambini dai tutto quello che loro vogliono fare senza proibire niente, anche quando è giusto o anche quando non è giusto, perché anche noi possiamo sbagliare. Sì, ma e poi scusi, tu prendi in un locale che il bambino sia buono, quando tu alla base comunque non gli hai dato un minimo di educazione, hai sempre pensato a levartelo dai coglioni, scusate l'espressione, mandandolo fuori. Capisco l'afflato nel parlare, però secondo me non è indispensabile andare fino al Messico per vedere questi fenomeni che si vedono in qualsiasi ristorante, pizzeria, luogo di incontro, McDonald's, di bambini riuniti per feste, compleanni. Ormai è un fenomeno generalizzato. La globalizzazione ci ha colto anche nella bimbo minchiaggine generazionale. Andrea, poi chiudiamo. Salve. La cosa che volevo sottolineare, io lavoro nell'ambito del turismo, vedo questi bambini al ristorante come si comportano. Chiamiamoli con il nome, che con il neologismo che abbiamo scoperto questa mattina, per così almeno si capisce. Questi bimbi minchia, sì. li vedo molto bene, ma secondo me c'è un carattere sociale prettamente italiano che esalta queste caratteristiche. Quindi lei pensa che, diciamo, che la scaturigine primaria della bimbo minchiaggine viene dalle nostre latitudini? Penso di sì, penso che ci sia un controllo sociale diverso in latitudini più nordiche, nel senso che il genitore italiano non permette a nessuno di esercitare un controllo sulla bimbo minchiaggine del proprio figlio. Il genitore tedesco, pur interagendo meno con il figlio, permette agli altri adulti di interagire con il proprio figlio e di bloccare le manifestazioni più evidenti. Quindi lei dalla sua esperienza, diciamo, di di frequentazioni con persone provenienti da vari paesi, può notare che i nuclei familiari maggiormente bimbominchiaizzati, cioè però diffusamente, nel senso che anche i genitori partecipano a questa patologia, sono quelli che vengono dai nostri paesi, dalle nostre città. Gli stranieri riescono a essere esenti, ma nella frequentazione esiste un contagio? Cioè si bimbominchizzano anche i bambini tedeschi o rimangono esenti comunque? Assolutamente no, io penso che un periodo troppo... c'è tutta un'altra mentalità nel... ci provano a casseggiare, ma sanno perfettamente che ci sarà un controllo sociale in qualche modo. Quindi quando tornano a casa, diciamo, le circostanze e il rigore ambientale impedisce che il virus sopravviva, è come nei paesi freddi si prende meno alcuni tipi di malattie, nei paesi caldi è più facile prenderli. 800 24 00 24, attendiamo testimonianze su questo nuovo virus. Del resto, cosa volete aspettarvi da papà dal capello lungo brizzolato, jeans melanzana, felpa hydrogen color carota con la scritta Cortina, o abbiate grasso? O scemo, dei premi Nobel per la fisica? Aggiungeteci poi le madri che sembrano uscite dalle nevrosi delle casalinghe disperate, e siamo a posto. Per dare la genesi di questo fenomeno, la bimbominchiaggine, che è un virus generazionale che coglie i bambini dei 5 anni e continua ad infestare la loro coscienza e quella di chi gli sta loro attorno fino almeno ai 45-50 anni. Alessia gli viene il dubbio, dice: forse sono una bimbominchia anche io, davvero non conosco nemmeno una bimba di 9 anni che vada in discoteca, la mia sarà una vita bucolica. Valentina: conosco un tragico esempio di bimbo minchia 35enne, figlia di genitori divorziati. Costoro tamponarono con beni materiali, denaro, il vuoto affettivo che a loro dire la pupa pativa per il disgregarsi della famiglia. Ah già, il bimbo minchia molte volte è figlio di genitori bimbo minchia separati. Viziata e supponente, era un adolescente insopportabile, poi sopravvenuto il mondo esterno che ha iniziato a dare alla malcapitata tanti calci in culo. Questa ragazza non ha avuto capacità adeguate di reagire, avrebbe dovuto rimboccarsi le maniche umilmente per una volta, iniziare una gavetta accettandola, andiamo avanti. Invece si è creata disagi psichici in cui rifugiarsi. Ora la malattia è il dito tra cui nascondersi per non lavorare, non rendersi indipendente, essere mantenuto da genitori a un'età ormai ragguardevole. Sì, perché l'esito finale del nucleo familiare bimbo minchizzato sarà due genitori in sedia a rotelle con il catetere, con un figlio, anche lui vecchietto, sulla sedia a rotelle, che tutti e tre si guardano e si specchiano come due specchi contrapposti l'uno all'altro, con un vuoto in mezzo colmato probabilmente da alcuni badanti che si occupano di loro. Luciana. Buongiorno signor Gianluca, io seguo qualche volta queste rubriche e oggi fatalità sento un argomento molto interessante. Ma coglie nel vivo la bimbo minchiaggine. Sì, da bimbo minchiaggine. Vorrei appunto sentire se è quello che penso anch'io. Io ho una figlia di 30 anni e è fidanzata da un anno con un ragazzo che ha 43 anni. Ma queste cose che mi racconta... Cioè un ragazzo che ha 43 anni, adesso non per dire, mio padre aveva già figli, stava già pensando alla pensione. Ecco, e allora penso proprio di aver colto l'obiettivo, colpito il segno. Allora questo ragazzo che si stufa, ha un bellissimo posto, è una persona erudita, è uno sportivo, in tutte queste cose. Però è bimbo minchia. Però sembra a me, e come anche ve lo dice mia figlia, ma la parola è venuta fuori adesso in questa rubrica, fa i capricci, è viziato, si stufa, è così, e è figlio di genitori divorziati, figlio unico. I suoi consuoceri li individua nella categoria dei bimbo minchia, anche se avranno... Sì, perché la signora è una persona insopportabile. Ciao amore, ciao tesoro, ci sentiamo, lo chiama 10 volte, 20 volte al giorno, e in questi momenti mia figlia va, insomma, non riesce più a sopportare una situazione così. Quindi genere. Secondo me, Luciana, lei pensa che il suo nucleo familiare d'origine, cioè lei e sua figlia, siano... io mi ritengo esenti. Una famiglia di buon esempio, perché mia figlia è laureata ingegnere, l'ho lasciata libera, ha scelto, ha fatto quello che vuole, ha un carattere molto ma cosa fermo. Gliel'ha fatto fare a sua figlia di andarsi a mischiare con una famiglia di bimbo minchia, secondo lei? Vede, ma questo è il fatto di lei lavora in una città, quindi noi siamo di paesi, di periferia, di campagna. Ha trovato probabilmente una persona molto interessante, perché l'aspetto è molto è una presenza molto fine, molto anche serio, diciamo, come persona. Però è minchione, diciamo la verità. Però arriviamo al nocciolo della questione. Questa ragazza potrà avere qualche speranza, dico io, oppure lei, come già si sente e me lo dice, mi sembra di fare una vita insopportabile. Sì, ma c'è una prospettiva di vita al bimbo minchia che si accompagna con sua figlia, oppure passano il tempo andando a ballare, a giocare, a mangiare? No, loro hanno interessi molto di cultura, hanno due lavori, mia figlia lavora in un'azienda multinazionale molto importante, lui lavora in un settore molto importante, hanno colloqui, dialoghi, però questo comportamento a volte riesce a rovinare questa questione. Ma quando lei guarda sua figlia negli occhi, intravede dei segni del... La vedo sì. La vedo sì che non è contenta, che non è... Ma non si sta bimbomicchiaggiando anche sua figlia un po', no? Mamma mia, e per lei cosa vuol dire? Cosa mi può spiegare? Che diventa come la madre del suo fidanzato, le dirà amore, tesoro... No, perché noi siamo molto... Allora perché non agisce in maniera... Lo dice più alla mamma che a mia figlia. Perché non agisce in maniera drastica per demolire questo bimbo minchia dall'immaginario? E che consiglio mi può dare lei? Ma che ne so, trovi qualche sano buon idraulico del suo paese e lo faccia uscire con sua figlia, troverà subito la differenza, secondo me. Guardi che mia figlia ha avuto molte agre amicizie importanti e ha lasciato perdere... Sì, ma infatti il bimbo minchia arriva sempre l'ultimo di una lunga serie, è fisiologico della sua caratteristica, è quello che alla fine risolve il problema di tipo pubblico. Ma ha imbattuto in questa persona... Vabbè, io signora le faccio i migliori auguri, anche se ormai la vedo messa piuttosto male. Walter. Pronto? Avanti. Sì, io ho acceso da pochissimo la radio, ho sentito l'espressione bimbo minchiaggine, spero di non essere fuori tema, ma da quello che sento adesso... È in tema. Probabilmente di no. Io con i miei amici e le mie amiche, quando siamo in vacanza, facciamo una sorta di gioco, ma è molto, per alcuni aspetti molto triste, che è quello di individuare immediatamente... la famiglia di bimbo minchioni, non si può parlare solo di bambini, ma proprio della famiglia nel suo gruppo più esteso. Cioè il bimbo minchioni come se fosse proprio il cognome. Avesso... Bimbo minchioni, sì, così come a Chioggia adesso distinguono le famiglie con il soprannome che viene dato, ecco, bisognerebbe mettere il suffisso bimbo minchione o famiglia minchione di conseguenza. Quando siamo all'estero soprattutto, questo lo riusciamo a notare. No, guarda, io farei una sottile, perché dire soltanto minchioni è un termine generale. La bimbo minchionaggine è il permanere in un atteggiamento infantile anche oltre l'andropausa o la menopausa, ecco. È una condizione che non si riesce a superare da quando si hanno 3 anni fino ai 60, 50, perché poi subentra veramente il calo della libido, allora a quel punto probabilmente passa anche un po' la bimbominchianaggine. Noi riusciamo a individuarlo ed è persino un elemento di differenziazione, soprattutto quando siamo all'estero. Giochiamo a individuare la famiglia bimbominchiona senza ascoltarla. Normalmente riusciamo a individuare la famiglia italiana, che da questo punto di vista secondo me ha delle caratteristiche peculiari. Ecco, io però vorrei istigare il pubblico a un coraggioso auto da fé, un coming out spontaneo, generoso e catartico. Quanto siamo anche noi affetti da bimbo minchiaggine? Perché è facile vedere i bimbo minchia che ci circondano, ovunque ci sono bimbo minchia dai 5 ai 50 anni, ma quanto profondamente ne siamo intrisi anche noi da questo virus? Camillo. Pronto? Sì. Sono io? Sì, Camillo, è lei. Sì, sono io. Allora, io volevo dire una cosa di questo tipo. Una donna spesso sposa, infatti realmente è accaduto, sposa una persona che è un figlio minchione, pieno di soldi, foraggiato. Un bimbo minchia praticamente. Un bimbo minchia da dinastia minchia proprio. E allora cosa succede? Che praticamente questo qui è preso dalla vita, fatta da scapolo, quindi con la sauna, il tennis, il circolo... Gli amici, il calcetto. Gli amici che non si può dissolvere, che praticamente rimangono, ippica, queste cose qua. E spesso questo lo porta fuori di casa, neanche tornare tardi a mezzanotte. Quindi lei vuol dire che il bimbo minchia poi è anche cornuto, questo vuol dire alla fine. E alla fine questa qua che gli dice, oh, senti un po', tu farai tutte queste belle cose, ma però io avevo questa abitudine, che alle 10:30 si comincia a fare l'amore, chi è dentro, chi è fuori, quindi regolati tu. Quindi, ma questo è un episodio che dolorosamente ha segnato la sua esperienza o lo racconta così? No, questo è nel doloroso che ho approfittato di questa cosa. Ah, lei è io colui... Io sono un figlio di proletario, diciamo. Quindi è d'accordo col consiglio che avevo dato alla madre disperata di una sana figlia in mano a una famiglia di bimbo minchia. Alla fine... Lei dimostra, mi faccia parlare perché è importante il passaggio. Che in realtà nelle fenditure lasciate aperte, affettive, relazionali, di concupiscenza, di lussuria, di desiderio, lasciate naturalmente inappagate dalla bimbo minchiaggine generazionale, arriva un malandrino infame come lei che ci si infila dentro e ne approfitta. Ma non è questo, che certe cose vanno colmate, o le si colma o le si trova chi se le fa colmare. E la bimbo minchiaggine per sua natura è una natura incolmabile. Ma non lo so. Voglio essere la prima a trovare un biglietto dorato, papà. Lo so, Angelo. Stiamo facendo del nostro meglio. Tutte le ragazze del reparto stanno lavorando per te. D'accordo, e dov'è? Perché non lo hanno ancora trovato? Verusca, tesoruccio, ma credi che sia un mago? Dammi il tempo. Io lo voglio adesso. Che cosa fanno quelle cretine là sotto? Sono già 4 giorni che tutte le ragazze della fabbrica non si muovono dal bancone. Non hanno sbucciato nemmeno una nocciolina da martedì. Non hanno fatto altro che aprire tavolette di cioccolata dalla mattina alla sera. E tu metti il turno di notte. Come abbiamo fatto a rimanere ciechi di fronte a un così evidente sintomo della bimbo minchiaggine? Addirittura, vedete, nella fabbrica del cioccolato c'era già in nuce il rapporto intergenerazionale tra una bimba minchia e un padre bimbo minchione. Era chiaro, era lampante, il padre industriale che alleva questa figlia viziata, e poi finiranno entrambi malissimo quando entreranno poi nella fabbrica di Willy Wonka. Il bimbo minchia, che è un neologismo coniato questa mattina per un'intuizione che mi ha dato un'ascoltatrice su Facebook, è diventata il termine per definire una generazione di infantilismo radicale che coglie l'umanità, soprattutto le nostre latitudini, abbiamo visto, dai 5 ai 50 anni circa, che impedisce loro di entrare nella augusta età adulta, quindi diventeranno vecchi, appassiranno, moriranno, diventeranno post-cadaveri, ancora con l'idea di essere eterni bambinoni, con il mondo che deve a loro tutto, con i genitori a cui devono tutto e riferire tutto e essere grati di tutto. Daniela mi scrive su Facebook, lancia anche lei un appello, visto che Facebook è un grande ricettacolo di bimbi minchia. I bimbi minchia e le bimbe minchia poi si fanno un profilo di Facebook, è come un po' la cameretta dei giocattoli in cui mettono belle allineate tutte le bamboline di Barbie, solo che in realtà sono le loro foto nello splendore delle loro migliori toilette. Daniela dice: cari di Facebook, questi mostri di figli che hanno colonizzato la vita ai loro genitori smidollati e per la legge transitoria del rompipallismo, quella di parenti, amici, vanno isolati nel loro mondo rarefatto e indiscreto, prima che possa accadere l'irreparabile. Insomma, si rischia di menare prima i fanciulloni, poi i loro genitori sallucchioni. Sallucchioni non so cosa significhi, qualcuno me lo spiega, mi fa una grossa cortesia. Non possiamo sopprimerli, ma possiamo prendere le distanze da questi quadretti familiari insopportabili. Dario, buongiorno. Buongiorno a te Gianluca, io sono un ex bimbo minchia. Quindi si può guarire? Ma senti, si guarisce non necessariamente per un meccanismo interno del bimbo minchia, possono succedere altri fatti che ti condizionano al punto da perdere questo stato. C'è un incidente stradale che un autotreno sradica i genitori dalla sua vita? Anche, ma più che altro può anche essere il fatto che tu non sappia mantenere questo status. Io ti faccio un esempio, l'imprenditoria... Ma fino a che età è stato bimbo minchia lei, Dario? Ma guardi, io sono stato bimbo minchia fino a quando ho perso la ditta che mi era stata regalata praticamente. Più o meno che età era? 36-37 anni, sì, forse abbastanza giovane. Allora, suo padre gli aveva regalato un'azienda? Sì, perché diciamo che tipico dell'imprenditoria fiorentina è quella di inserire all'interno dell'azienda i propri parenti, quindi si mette la moglie alla cassa. Beh, accade anche negli uffici pubblici, accade nei giornali, accade nelle banche, sì, accade ovunque. Questa è una cosa che non sapevo, per me è una scoperta atroce. Bene, a sapersi. E accade quindi nell'azienda pubblica televisiva, accade in tanti posti. È vero, è verissimo. E quindi che succede? Succede che, come dicevo prima, la moglie alla cassa e il figlio rincoglionito era stato messo al magazzino. Dopo circa un anno di magazzinaggio duro è stato posizionato alla massima dirigenza. Però poi che cosa succede? Quindi da facchino, da fattorino è diventato top manager. top manager, esatto. Però che cosa succede? Come fa un ex magazziniere a riuscire a mantenere una professione del genere? E soprattutto come ha fatto ad acquisire la professionalità per continuare poi come top manager? Conseguentemente l'azienda ha chiuso. Io ho perso lo status di bimbo minchia. Peraltro era anche una situazione, guardi, a me molto favorevole, perché si immagini un po'. Però poi, dopo aver perso questo status, mi sono dovuto rimboccare le maniche, adesso lavo i piatti. Le dico, è meglio adesso. Diciamo, adesso lei fa una professione più dura, più umile, ma può finalmente gloriosamente dire, come nei gruppi di autoaiuto per bimbi minchia, ciao, mi chiamo Dario, sono un ex bimbo minchia. Precisamente, e questa cosa viene solitamente anche registrata come un fatto molto positivo. Bravo Dario che ce l'ha fatta. Enrico, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei frequenta gruppi di autoaiuto per bimbo minchia? No, io volevo dire solo che si crea il bimbo minchia, si crea secondo me tra moglie e marito, quando i bambini come i miei che hanno 9-10 anni si comincia a dire compriamo le case ai bambini per quando saranno grandi. Ah. Ecco. Vabbè. Per me questo qui è... No, beati voi, perché la maggior parte degli esseri umani hanno il problema di comprarsi la loro prima casa ancora. Bravo, no, anch'io non sono lontano da questi pensieri. Io gli avevo comprato la casetta della Chicco, quella di plastica, fu già una grande spesa, mi ricordo. Io te la costruisco addirittura con i manici delle scope, ecco, sì. Risparmio anche sull'acquisto di questi giocattoli. Però secondo me mettere veramente, frenare le possibilità future di un bambino dicendo tra moglie e marito si compra la casa per quando sono grandi, ecco, e loro cosa fanno quando sono grandi? Vi danno un calcio del sedere, vendono anche la vostra casa, ci comprano la seconda casa al mare, certo, ecco. Chiaro. Quindi il bimbo minchia secondo me si comincia a creare dal momento in cui si comincia a preoccupare del futuro nelle cose pratiche, insomma. Beh, Enrico, però non dimentichi quello che abbiamo detto all'inizio. Bimbo minchia è tale perché vive e cresce prospera in una famiglia di bimbo minchia genitori, quindi bisogna guardarsi un po' allo specchio. Cristina. Buongiorno. Io volevo dire, no, volevo spezzare una lancia a favore dei bimbi minchia, però bimbi minchia di ora, non quelli che avranno 30 anni, perché quella secondo me è già un'altra generazione. Bimbi minchia di ora secondo me sono un po' pressati da questa società che è più minchiona di loro, perché non possono fare niente, perché non si può fare una bizza che giace tutti gli occhi d'intorno di tutta la gente che ti guarda, e quindi non è possibile che un bimbo faccia una bizza, quando voglio dire chi non ha fatto la bizza da piccolo. Quindi lei giustifica il bimbo minchia nel suo invadere lo spazio olfattivo e sonoro degli altri. Loro hanno tutti i diritti di essere invadenti, poi certo. Sì, quindi... ma nessuno ha diritto di invadere gli spazi altrui con i propri figli invadenti, quindi lei no, in realtà... Sicuramente no. Però si renda conto che lei sta creando la situazione ambientale migliore, perché il virus del bimbo minchia si espanda in maniera illimitata. Giustificarli è il primo passo da appartenere alla loro dinastia. Roberto, chiudiamo con lei. Pronto? Sì. Intanto complimenti Gianluca. Vado al punto che devo chiudere, se no la devo segare. Sì. Allora, io sono un piccolissimo imprenditore. Assumo i miei collaboratori con un contratto a termine di formazione professionale e poi li assumo a tempo indeterminato solo se non sono più bimbi minchia. Quindi lei mette una clausola nel contratto, ti assumo e in prova purché tu sia esente dal morbo della bimbo minchiaggia. Non so se è discriminatoria come clausola, però senz'altro aiuterà a risolvere il problema. Grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, bimbo minchia dalla nascita, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24, la passione si sente.